è stabilizzato. Beh, l'unica cosa era fare così, a un certo punto sono acceso, quando si effettava, saldare, come si chiama, sembra che sia a posto adesso. La radio dice che è tranquilla, non è fuori frequenza, quindi, vabbè. Così no, mi sono regolato lo split di ricezione e anche trasmissione. Io, perché l'altro giorno quanti 9.25, 9.30, eccetera, eccetera. Vabbè, adesso facciamo lavorare tutta la notte. Tutta la serata fino a domani, vediamo come si comporta, se sono per i coglioni, fa sette lo prendi, è a posto. Il problema è che se tu tutta la sera accesa non succede niente, il problema è lo fa, quando tu lo spegni a freddo lo fa quel problema. Magari poi dopo quando i casi non guardi più, però... No, è a posto, è a posto. Vabbè, saluta, è logico che lo spengo. Se non mi sbaglio, dal bippi dovrebbe essere... ho visto un bippi di punizenda, non mi sbaglio. K di Rogero, buonasera, Antonio. Anche a te, Alessio, e mi sa, prima ho sentito Claudio, e Daniele che lo sento ma lui non mi riceve. E va bene, sono in ascolto. Eia, salutoni, mi hai sentito anche a te. E io che mi sto preparando perché alle 7 devo andare al Ghero, mi hanno invitato a una cena per le 8. E quindi niente, ero acceso ma stavo facendo delle cose in casa e niente di che, dai, e riprendo a fare, dai, continuate pure, e poi se ho una mezz'oretta già rientro. Come mi preparo? Tanto aspetto alle 7 e poi devo uscire. Vabbè, d'accordo, non c'è problema, facciamo qua. Dopo Carlo, poi già sono un attimo, c'è un bel po' di roba alla guarda, ma pure un bel po', alla fine c'è una boh, un attimo, almeno un bel po' di roba alla guarda, che non ci penso più. Guarda, non dirlo a me, in pratica me, ho fatto una lavatrice ieri, adesso devo toglierla e stenderla, quindi figurati tu. Dopodiché devo pulire in terra con l'aspirapolvere, eccetera eccetera, perché la potenza è una volta in terra, questo sì. Però è un casino, cazzo, fanno da solo, siccome è a letto e non si può alzare, quindi a un certo punto mi tocca farlo a me, è come se fossi da solo, abitando, capito? Il discorso è quello. Poi fatti dare la mano a tua sorella. Mia sorella, ciao, tre cani. La figlia, l'altro figlio e l'altro figlio ancora, quindi in altre, a me sta pensando, lascia perdere che forse lei è messa più male di me, non io. Il discorso è quello. Ma pure le figlie che sono femminucce, deve farla muovermi. Siamo a quei livelli, siamo purtroppo, hai capito? Uno aiuta l'altro, di famiglia, quindi, capito? Ci sono tre cani, quindi, non la libreria, no, tre cani proprio. Quindi a un certo punto, Tommy poveraccio, è già quasi un mese che non esce, quando mi vede a casa la mattina, mi guarda, mi dice, ma io mi porti, adesso stasera mi faccio fare un giro, mi faccio fare il coccò, la pipì, e poi se la prende in culo. il cane è un impegno, bisogna evitare di pigliare animale quando uno è incasinato, io non che, cioè, non è che li voglio male, però per la situazione che sono io non. No. Mi dispiace zero proprio perché no. Cioè, ho tengo il bambino, ho tengo un cane. Cioè, è un impegno, non è Gucci, non è voglio sapere io. No. Sì, ma lo sai che a volte cioè avere un cagnolino col bambino va bene. Cioè il bambino lo rende più tranquillo, hai capito? Quello ti voglio dire, hai capito? Magari che ti rendi coglioni più che altro a portare il cane a pisciare, quello soprattutto che con te a fargli l'attacca, però per un bambino caso, il cane lo rende molto, ma molto, totalmente tranquillo, la verità. Se no non avrebbe preso nessuno, questo è quello che ti sto dicendo, capito? Ecco perché lo prendo, vabbè, un cagnolino piccolino, non è che succede a nulla, poi dopodiché quando una volta è grande non c'è da fare tenerlo, eccetera, eccetera, prendi e lo dai, ma però a un certo punto gli fa compagnia, hai capito, al bambino, si giocano, eccetera, eccetera, a me non ti rompe le palle, capito, poi sta quella mette uscire, eccetera, eccetera, tutto lì. Cioè, è pesanti, cioè. Ma come sono io che non ho lì, è troppo pesante, no, va bene Gabriele, va bene mio figlio, e boh, te abba con la fare il dito d'occhio, ma cazzo, mamma mia, guarda, non sta un minuto tranquillo, un minuto. Vabbè, per te è pesante il tuo figlio, per me è pesante Simona, quindi figurati, cazzo. Quindi a un certo punto c'è il cane che la calma, cosa del genere, e quando esco, hai capito, a un certo punto di togliere lo stress, eccetera, eccetera, quindi vabbè. Tutte cose diverse sono la verità. È incredibile, guarda, ti fate i cillucci. Sono stanco, cazzo, guarda. Ma cosa vorrei? Dormire vorrei. Ma ti facendo burletto. Sto prendendo il ricambio, darcelo. Già lo so. Vabbè, ma comunque sia, c'è tutto il cielo, le persone stanno così, un bambino è bello averlo perché almeno ti rende felice quello che è, anche il cane addirittura, la verità, anche il cane addirittura gioca col bambino, perché gioca, si diverte, eccetera, eccetera, e quindi ti rende il bambino più calmo, non ti rompe le palle, eccetera, eccetera, se tu ci sei, hai capito? Io ho avuto esperienza a voglia. Ma giù che di qua parla. E giù che qua parla. Oh signore mio, grazie. No, faccio un attimo il bianco, ma caricare quella la matrice, metto altra roba a lavare. Via, va bene, ok. Quindi tutto a posto, quindi sono contento che adesso sta non stanno prendendo le palle da parecchio. Va bene. Ok, io sono qua, ascolto. Ho acceso, va. Fino a domani mattina. Anche tutta la notte acceso, non so cosa. E t'anno, come t'annamo, so? Caldo, come andiamo? Sì, ieri ho collaudato un altro antennino. Come ti sto arrivando lì di segnale, Antonè? Sono pronto? 1, 2, 3, prova radio 4, 5, 6. Segnale 9, 6 qua. Già andà bene, già andà bene. Ho messo la boomerang della Sirio, quella più grande. Che esci meglio a voglia. Io mi sto usando un apparecchio che mi ha dato Antonio, sta facendo di testa, sembra che adesso si sia stabilizzato. Era un rotto di palle, cazzo, questo apparecchio qua. Quando era freddo rompeva le palle, adesso che è caldo funziona benissimo. Adesso stanotte io lo spengo, lo lascio raffreddare e vediamo se mi fa lo stesso effetto. Se mi fa lo stesso effetto vuol dire a posto. Domani mattina glielo do, almeno è a posto e lo usa in macchina tranquillo. E va bene, vuol dire che aveva bisogno di essere vista questa radio, va bene, importante che stia andando. E quando si può aggiustare qualcosa, sempre bene, sempre bene. Ma che giornata di schifo, cavolo, è nuvoloso, però non sta piovendo. Prima ha fatto qualche goccia e adesso non. Speriamo che non piova a questo punto. Speriamo di no. Io perlomeno non ho visto piovere ancora, grazie a Dio. E già ne ha fatto di acqua in questi giorni, diciamo è da un paio di settimane che sta piovendo, quindi anche i bacini già si sono riempiti adesso, anche questi qua che ci sono dalle nostre parti, così ho sentito, ma ancora già ne farà di acqua, quindi ha voglia di riempirli bene. No, più che altro che così stasera mi faccio il viaggio con la strada asciutta, dai, perché devo andare a una cena di questo mio collega che va in pensione e siamo da Bruno, praticamente quasi vicino a Fertilia, e quindi mi già sono in ferie, non sto andando a lavorare in questi giorni, per cui già non mi costa granché di fatica, dai, perché se fossi stato con i turni magari non ci sarei potuto andare. Infatti ho detto meno male che la stai facendo in questo periodo che mi ho chiesto le ferie, e infatti molti colleghi stanno tutti lavorando, chi viene più tardi, chi... ho detto no, se mi dici che per le 8 io alle 7 mi prendo la macchina, esco un attimo prima perché devo passare da Tecnomat a prendermi una spina e una presa asciugo per farmi una prolunga e poi vado direttamente ad Alghero. Esagerato, e a quanto stai pompando? Fondo scala. Ecco qua. A volte bisogna di cazzo. Input, diceva quello. Ehi, abbassa appena, cavolo. Mi stai bucando la radio qua. Esagerato. Ma quindi aspetta, c'è un gosso. Questo è che vuoto mio, il 140. Ma infatti mi sei arrivato da prima di 9.20, 9.30, dai, e poi di colpo è attaccato e è sceso tutto a 9 più 60. Già va bene, meglio così, sono contento. A tu e a te? 960. Un po' di meno, quasi 925. Ah, vabbè, già va bene, no? Ok. Il freddo, è un casino, cazzo. Sì, il freddo non è che ne sta facendo, Antone, è l'umidità che molte volte con le radio ferme, capito, un po' magari le può rovinare e quindi è bene accenderle ogni tanto, capito, solo per quello. Già me sono accorto, infatti. Piano piano, ne ha tante di radio, un giorno una, un giorno l'altra, capito, a rotazione e si fanno viaggiare tutte così non si rovinano. Che molte volte le lasci ferme per lunghi periodi, poi vai a usarle queste radio e hanno un sacco di problemi, soprattutto le vecchie radio di vecchia concezione, capito? Così sto facendo anche con quello, con quel mitigante di Antonio, lo sto facendo acceso, hai capito? Fino a un certo punto non è che devo stare a sventiare in casa, a un certo punto come si dice, fa valere di tutto di più. Figurati. Vabbè, ok, a posto. E non c'è nessun altro, io, tu, Antonio, sei in ascolto, ma sta facendo roba. Anch'io oggi mi sono messo a fare a casa, perché ieri sera sono venuti i miei figli, ci avevano il cagnolino pure, infatti ha ridico il cane, un bassotto, capito, però è piccolo, c'ha 4 mesi ancora, ma ne fa di tutti i colori. È entrato in bagno e dalla doccia ha preso le ciabatte, se le è portate in giro in tutta la casa, capito, sta sempre a morsicare tutto, sta ancora è cucciolo, capito, però fa compagnia. Se si è pigliato le ciabatte è stato quello che le ha mangiate, questo è poco ma sicuro, lo faceva Tommy, lo faceva. Sì. E ieri, infatti, ieri mattina sono uscito con mia figlia e gli ho fatto un po' di scuola guida e avevamo anche il cagnolino in macchina, poi ce ne siamo rientrati qua a casa, è rimasto a pranzo qua, dice ma il cane deve mangiare, e ho detto già ce ne ho di roba per il cane da mangiare, gli ho fatto un po' di riso, poi gli ho messo dentro un po' di quella, di quelle scatolette per i cani, capito, le avevo comprate di manzo e ho visto si ha mangiato tutto, gli ho messo l'acqua e poi stavamo mangiando noi, gli ho dato la pera, si è mangiato una pera, capito, anche la frutta si mangia. Aspetta, mettiamo ancora il campanello, va, ce la sentiamo. Ok, dai, dopo ci sentiamo, Antonio. Ciao, Antonio, a dopo, non ti preoccupare. E quindi oggi, Antonè, ero di faccende di casa, ha passato l'aspirapolvere dappertutto, già è piccolo l'appartamento mio, quindi ho impiegato una mezz'ora, capito? E poi ho attaccato il lavapavimenti e mi ho lavato tutto quanto, ho messo sedie sul tavolo, tutto all'aria ci avevo. Adesso ho asciugato tutto, chiuso le finestre, 5:30, adesso mi è partito il riscaldamento, così quando rientro stasera trovo calduccio. Hai fatto bene, la verità. Io stavo per mettere Simona tipo le sedie, no, sotto al tavolo, cazzo. Dopodiché avevi in pratica acceso lo scaldabagno per scaldare il caso di salone, perché quello è una ghiacciaia a un certo punto, quindi e invece Simona si è andata in camera sua è rimasta lì come la stamattina, quindi a un certo punto mi tocca fare tutto a me, la valentella, tutto quello che c'è da fare. A un certo punto adesso ne ho, non so più come sto scendo di testa, sto scendo, guarda. Ogni mattina adesso prendo, pulisco in terra, lavo in terra, quello che è, faccio la scoppa, eccetera eccetera, poi si vedrà a un certo punto. Già fa bene, e almeno fai un po' di movimento, capito? Io lo stesso, sempre facendo, sempre. Stamattina sono andato alla casa della chiave perché dovevo ritirare una chiave di macchina, capito, di un mio collega che mi ha chiesto la cortesia, però lui l'ha ordinata, capito, si è ordinato il guscio, ha messo la scheda dentro il guscio nuovo, convinto che funzionasse, e invece cosa ha fatto? Si è dimenticato di metterci il transponder, che è quella specie di microchip che serve per il riconoscimento della chiave, capito? Senza quello non ti fa partire il motore. Meno male non l'aveva buttato, quindi l'ha recuperato dal guscio vecchio, me l'ha dato e gliel'ho portata lì alla casa della chiave, che le hanno detto non le comprare da internet perché quelle lì non vanno bene. E quindi gliel'ha fatta, 25 euro una chiave, però gli ha messo batteria nuova, gli ha sistemato tutto il microchip dentro, insomma la scheda, praticamente adesso se l'ha fatta nuova la seconda chiave, perché quella che aveva si era rotta, quindi sono andato là a piedi. Infatti mi ha chiamato Gianni W Room al telefono, sono sotto casa tua perché dovevo andare all'assicurazione, invece è chiuso. Ho detto purtroppo sono uscito, non sono in casa, se no sarebbe salito Gianni a prendersi un caffè, capito? E niente, poi sono rientrato a casa che era le 11:30, mezzogiorno, tra pranzo e tutto ti passa la giornata che neanche te ne accorgi. Già lo so, già, di da me. E guarda, stamattina sono tutta la mattina fuori, figo sei tu. Sono stato a casa e mi sono preso una birra. Prima ho preso una, cioè sono andato a prendermi una birra normale, dopodiché ho fatto la spesa eccetera eccetera, mi sono pigliato un'inchiusa, dopodiché non ho neanche bevuta, figurati tu. Dopodiché ho trovato un amico al bar, mi sono bevuto una birra insieme a lui, un CB, e dopodiché sono andato a casa. La birra che avevo comprato per 2 o 3 giorni ce l'ho ancora qua, figurati tu. Dopo che c'era, meno male che ho fatto anche la spesa per cena e pranzo, adesso stanotte mi faccio una bella cena, poi domani faccio un bel pranzo, eccetera, eccetera, quindi faccio fuori il sugo, eccetera, eccetera, mica ce lo butto, cazzo. Hai capito? E quindi utilizzo la birra che c'è, che mi son preso e me la bevo. Faccio così sempre, una giorno, una pranzo, una cena, boh, basta. E ieri sera io una birretta di quelle piccole mi sono bevuto perché c'erano i miei figli, abbiamo ordinato la pizza, loro non ne bevono, capito, Coca-Cola, roba del genere, e io mi sono bevuto una birretta, capito, però di mattina non ne tocco, solo caffè eccetera, a meno che non sia tarda mattinata, tipo un bicchiere di birra prima di pranzo, così se mi capita lo posso anche bere, ma preferibilmente alla sera, la sera va meglio, capito? La sera va meglio, adesso stasera c'ho questa cena alle 8, tra un po' mi preparo, così poi esco e te l'ho detto, mi sto facendo una prolunga di quelle col filo a molla, capito? Che si allungano sino a 3 metri, però mi serve spina e presa asciugo, capito? Perché a casa ce le ho tutte così. Ho provato il filo lì sotto casa tua dove c'è l'elettropiume, sono andato, ci sono passato ieri mattina, non ce l'avevano la prolunga, dice, però c'ho il filo, però non avevano né spina, ce l'avevano bianca, e ho detto cosa mi faccio, una prolunga, il cavo nero, e ho detto le spina è presa bianca, ho detto va già ridì, ho detto no, se ce le hai nere me le prendo, se no ti prendo solo il filo, ho preso il filo, è bello grosso pure, però quelle nere mi hanno detto che ci sono da Tecnomat e dovrei trovarle lì, capito? Quindi andando al Ghero adesso mi fermo un attimo, esco un attimo prima e così mi preparo questa prolunghetta, perché io ce l'avevo, l'ho lasciata nell'altra casa, capito? Ma anche se era un po' corta quella, massimo arrivava a 2 metri, invece questo è un filo più lungo, arriva a 3 metri e mezzo, e molte volte ti serve per attaccare, che ne so, il saldatore sul tavolo che ha il filo corto, capito? E la lasci dentro un cassetto ed è sempre a portata di mano. Sì, ho capito. Quindi è andato bene, è andato là, più che altro. Vai tranquillo. Stasera stavo cercando di agganciare il palo. E invece casa mia, la strada è più larga, io mi ricordo, adesso non mi ricordo se era quella o quella più stretta, quindi a un certo punto si vedrà, vabbè, comunque già c'ho 2 tasselli di quelli espansione, però, come si dice, no, quello da 50 centimetri, faccio i fori, faccio i buchi, piazzo il palo e installo l'antenna per mio nipote, hai capito? Così almeno sono più tranquillo, non devo stare a girarmi le palle e cose del genere. A me faccio un regalo, gli faccio, perché altro, hai capito? Tanto che c'è l'apparecchio, gli ho regalato un coso, un apparecchio uguale, un Midland, allora, mi sembra 68, non mi ricordo se 68 o 48, quello che è, comunque sia, ho regalato quello e poi gli ho regalato l'alimentatore. Vabbè, ci vado, c'è il 2009, quindi può agganciare tranquillamente il 2009 e quello che è. Se la aggancia tranquillamente in camera sua, il discorso è quello. Se non ricordo male, la differenza tra Alan 48 e 68, allora il 48 aveva 40 canali e il 68, se non sbaglio, ne aveva 36, con qualche canale diverso, capito? E io mi sa che aveva avuto anche proprio il 68, se era così, perché era un 34 o 36 canali, qualcosa del genere. 34, sì. E comunque erano buone radio, capito? Erano ottime radio quelle lì. Sì, si possono modificare come vuoi per quelle. Una volta che li spacchi, li, come si chiama, ti dai 40, dopodiché ti dai 35, poi una volta che hai messo 35, non fai altro che mettici un 4 e ti dà il canale sopra e il canale di sotto, il discorso è quello. Sì, radio che io ho avuto quando abitavo ancora a Bonorva, ma io ti sto parlando della bellezza forse anche più di 40 anni fa, e funzionavano bene, poi quella lì me l'avevano chiesta, l'avevo venduta, capito? A uno di Bonorva, capito, che adesso poverino non c'è più, chissà che te ne ha fatto quella radio, e lui se l'aveva messa nel camion, capito, ed era una bomba come radio. Magari ce l'aveva in casa, ne pensavo. Io anch'io apparecchi che cazzo che sono fermi, la verità, c'è il 2009, come c'era mia sorella, tale uguale, poi c'ho quello, l'ultimo che ho preso, che in pratica c'ha l'effetto eco, eccetera, eccetera. Quindi, boh. E poi mi sono fermato lì, a parte il coso, il Kevut 140. Poi attenzione, non l'ho speso. Se avrei avuto un bello stipendio da 3.000 euro al mese, mi sarei comprato uno di quelli che vendono adesso. Il discorso è quello, ma il problema è che ci vuole il cazzo di coso, ci vuole per poterlo far funzionare, hai capito? Comunque il portatile che ho io va veramente bene, la verità, è il migliore che c'è, ce lo stanno comprando tutti, ho visto, che su internet è il migliore che c'è, quello che ho io, quindi basta, avanza, c'è anche di riserva, ce n'è fino a 990 euro. Poi vabbè, ho visto su Rel una coglionata che ha scritto un arrivatore, vabbè, non voglio neanche perché mi si è mercato tipo un, vabbè, non voglio dire niente, ma cioè, lo sai, no? Un arrivatore cazzo che ti dice cazzo che è un buon fegge cazzo parte da 4.40 cioè parte da 4.30 a 4.40 cazzo è veramente scemo cazzo, perché non è possibile cazzo a un certo punto, quindi evidentemente ho fatto la patente cazzo per incontri, o se non capisce un cazzo della frequenza, il discorso è quello lì, ma comunque sia, non me le fotte nulla, non voglio avere niente a che fare con queste cose cazzo che scrivo sul rail, cazzo, magari quello non è manco l'animatore, magari cazzo un abusivo, ce l'aveva con il Baofeng, ce l'aveva cazzo. Dice infatti da 4.30 ai 4.40, a me mi risulta invece che il cazzo è fatto da 4.30 a 520, quanto mi ricordo io, ma comunque magari sono rincoglionito io, ma comunque penso che sia rincoglionito quello lì, ma la base si è presentato con il nominativo suo, quindi evidentemente a un certo punto da sistemarsi un po' il cervello, ma comunque non è niente, no. A volte capita, lo sai che purtroppo è così. Vabbè, comunque stavo dando un'occhiata, quella radio, l'Alan 48 e 68, quello che dicevo io era Alan, adesso mi è venuto in mente, l'Alan 34S, ed era 34 canali, ed era così, Alan 34S, capito? Era una meraviglia di radio, e mi sa che adesso non se ne trovano neanche più di questi 34 canali così. Quello si può modificare, ma si può modificare in pratica parecchio, non solo l'altro, è di lusso quello lì, quell'apparecchio lì, è come l'FM 500S, tale uguale. Sì, e su eBay ce ne sono ancora in vendita, ovviamente usati, perché credo che non Alan non le fa più queste radio adesso, ormai andranno su radio più performanti, più moderne, capito? Quelle erano radio di 40 o 50 anni fa, capito? Lo so, non dirà a me, ma te lo sto dicendo. Le migliori radio che ci sono modificabili. Allora, l'Intec 606, per esattezza, l'FM 500S, l'Intec 74 canali e basta, non puoi fare altro, solo quelli puoi modificare, di tutto puoi fare, di tutto di più. E già, ho capito, stavo guardando fuori, sono le 18 e praticamente inizia a fare buio adesso, aumentate le giornate, adesso a fine febbraio fa buio alle 7, capito? E poi a marzo, a fine marzo cambia l'orario e fa buio alle 8, quindi cambieranno l'orario, a far buio saranno le 9 di sera, meno male, almeno abbiamo le giornate lunghe e riusciamo a fare più cose. Bene, Antonè, io adesso mi preparo e sono le 6, capito, e te l'ho detto, faccio un salto da Tecnomat e poi devo andare fuori Sassari. Ce la risentiamo domani, dai, tanto sono in ferie in questo periodo, sino al 12 sono in ferie. Ce la risentiamo, Antonè, grazie del QSO, ciao Antonio, se sei in ascolto, chiunque se ne sia in ascolto, buonasera e ce la risentiamo. Ok, là, ci stiamo domani al limite, là, stammi bene. Comunque, Rix, buon tutto, buon quality, eccetera, eccetera. A parte che questo sta funzionando bene. Eccolo qua. Adesso non fa più quell'effetto. Vabbè, ok, a domani, ci sentiamo là. Ciao ciao. Ciao ciao, ci sentiamo domani. Mi dà tutto a terra. lascialo fare che bambino, cazzo, che deve esplorare tutto quanto. Cazzo, che sei tu come tiri? Come cambiare come te tu? Casinista. E allora, lascialo fare, manca che non fa le cose pericolose. No, a Roma la notte me la fate bigliacco qua sul fanno, non bene sa. Culo! Sta potendo un giocattolo sogno, chissà cosa pensava. Piccolino, bisogna stare attento, so. Loro non ne sanno di queste cose. Mamma mia. E n'hai uno, e n'hai uno. Ciao Manuel. Ciao già. Hai capito già, e n'ha uno. Sai che ti ho pensato l'altro giorno? A me? Sì, ho visto una ruccia, una bella veramente, buttata andando a prendere le buste per la bandezza, in una aiola di un albero, praticamente una roccia tutta lavorata, poi c'era anche di quel legno che si mette negli acquari, deve essere qualcuno si è disfatto dell'acquario e l'ha lasciata lì. Vai vai! Sicuramente. Però per il mio acquario era troppo lunga, per il tuo va bene. Poveraccio. Cosa? Poveraccio. Come ti fa vai? tu dici, mi sembra che Manuele se. Ciao tu. Ciao Gianni, ciao Antonio, ciao Cingomino. Ciao Tony. Io posso dire che c'ho le ossa rotte su quel fracco, eh? Sempre da attaccare, c'è fara. Ui, ui, ui. Quattro modifiche, la deviata gli piace, due interruttori, non accende a spegne. La mazza gliene va a togliere. La voglio invertirti, faccio che diventi, altrimenti 18 interruttori per prima. Ehi, vabbè, Tony. Sei sempre guadagnato di lamenti. E beh, certo, bisogna fare la modifica, non ho capito. Devo trovare in tutto. Cambiare l'interruttore, mettere il deviatore. E dai, altri fili, capito? Deve... Capito, Manuel, se ti interessa, passi a casa, andiamo insieme e te lo faccio vedere. Ma quanto è grande? Allora, le mie cose ci sta, però io ce l'ho già le luci, capito? Rimane in lunghezza è tutta lavorata, ma bella lavoramente. Ehi, domani no, perché domani devo andare a fare una visita a Perfuga se non riesco. Ma se mai giovedì mattina. Vabbè, come vuoi tu. Tanto rimane, lo sai dove? Hai visto dove danno dove c'è l'isola ecologica, quella via lì. Il terzo albero non c'è da sbagliare. Sì, vabbè, il cazzo è ecologica, cazzo. Di fronte, quella via che c'è di fronte, tu fai quella via, ci sono gli alberi solo da una parte, il terzo albero, nell'aiuola c'è quella roba lì. Per venire a casa tua. Vabbè, dai. Manuè. Sì, tu lì. Arriva il terzo albero, alza la gamba e fa la pipì. Non ho capito. Arrivi al terzo albero, alza la gamba e fa la pipì. Ieri comunque ho pulito l'acquario, ho pulito il filtro, cazzo ne ha poco di mai attaccata sul filtro. E io ogni tanto lo pulisco, ma cosa dura? Io me ne accorgo da come scende l'acqua. Se scende netta vuol dire che ho turato. E quando scende normale è bella arzilla. Ah, è già bella. Era pulita l'acqua, solo che ero un paio di mesi che non la pulivo. Però ho pulito la spugna e tutto quanto. Almeno gli ho cambiato l'acqua, almeno 5 litri di acqua li ho cambiato. E mi uti che mi tocco le scarpe e metto le ciabatte. Io ogni volta che le la cambio, ne cambio almeno un 10-15 litri. Ogni volta. Pulisco tutti i segni dove ci sono i filtri, mi tolgo l'acqua da lì di modo che tolga l'acqua sporca. E poi la pulisco. E lo sai che cosa non faccio io? La pulizia della sabbia, se no mi basi un casino niente, si sporca tutta l'acqua. La lascio sotto e basta, tutte ci sono le puliture. E io... A me il pulitore c'è solo uno che è rimasto. Che da poi non faccio un cazzo. No, l'ho pulito con la pompa io, con quella pompa che per pulire la sabbia. L'ho mossa tutta la cazzo da guida e da leva. Ma ti faccio l'acqua sporca, poi ti risporca il filtro, un casino di vazzi. Ogni volta è un casino. No, già lo faccio, ma lo faccio più, diciamo, non sempre. Invece la pulizia del filtro la faccio molto spesso. Adesso, cazzo, ne sono molti, ma ne sono molti. Ne sono molti quelli neri brutti, per carità. Quelli non li potevo vedere. Ma quei pulitori che escono di notte? Quelli neri, quelli ne avevo due, sono tutti e due. Che marello certo, ragazzo, cosa? Ah, infatti non mi piace, ma quelli erano quando me l'avevano dato insieme all'acquario. Infatti non li ho messo dei gufi, altri. Ma li ho presi, sarà 3 mesi fa. Io sono andato da Acquazzurro l'altro giorno per comprare gli usci di secchia per i pappagalli. Ma non è più di osso di seppia, c'è praticamente pare gesso. E ho detto, questi osso di seppia sono sì, usano questi qui adesso invece che gli osso di seppia. Non li toccare nemmeno, gli osso di seppia subito cominciano a rossicare come li riporto. Questi manco li toccano. Ah, che vuoi che non li piace? No, perché quelli sentono il sapore del sale, capito forse? Non lo so. Comunque, adesso già va bene. Già va bene adesso. Faccio pulita, va a pulirlo fra anche 2-3 mesi. Guardi, ragazzi, con dei gambi in chimica. A parte che Meli non è no, non sono Meli, sono piccoli piccoli. Cazzo, non mi rinavo di fare i gambi. E lui, cosa c'è su internet? Oh, zitto, lo dici pure, cazzo, ha detto il commesso. Non devi dirlo, ah! Cazzo, a me mi danno i miei erano belli, cazzo. Mi le buchi io ci do, cazzo. Se la mangiate su un capo di cazzo di rubare su Black Molly. E io te la buchi. Tu rimuovi invece che si mangiare di capo, e poi forse. Ma chi si mangiare tutti i Black Molly? Non è una bocca, cazzo, quando li metti il mangi mi sono borracci. Black Molly è quello nero. Lei lo so, li conosco io i pesci, li conosco tutti, li ho avuti tutti quei pesci lì, ci sono anche maculati. Infatti adesso se mi capo stanno rimette i gambe, la mano non bisogna più visto. Io li ho avuti tutti, ho avuto anche piranha, non ti riguasto, ne ho avuto uno di piranha, poi sono cresciuti troppo e li ho dovuti dare. Li ho scambiati con altri tipi di pesci, ma erano troppo grandi per il mio acquario. Se avessi avuto il tuo magari ho avuto anche i discus, cazzo, i discus sono i veri pesci d'acquario tropicale. Il mio è 250 litri. Ma è un bel grande. Avanti, Antonio. Antonio era il mondo dei sogni, chi è avanti? Tutto muffio, ma le soprattutto mi già. Cosa? Ma lei, soprattutto. Paresi. Gianni, ma non mi senti? Sì, ti sento. Solo che stavo schiacciando il dato vedete parlare. Proprio a chi è? Poi cos'è? No, ma se mi capitano un piano più grande, sembra piccolo adesso. Piccolo? Cazzo, per il piano, che piano sei tu, mamma? Tu un piano. Lo so, però non mettere troppo peso, perché è pericoloso, Ma se cazzo va via, conosciuto gente all'ultimo piano, va via qua, lì ti butti le mani in capo. Io conoscevo uno che lavorava al banco di Sardegna, che era un pezzo grosso il banco di Sardegna, ed era il padre di un amico mio. E c'aveva un acquario che al posto del muro divideva la sala, il salone, dalle camere. Praticamente faceva tipo un tramezzo, ed era enorme, c'era pesci enormi, cazzo, ma bello, però era di acqua salata. Io lo sto facendo 12 metri, sto mettendo un pesce cane dentro. E dopo ti tuffi tu. Ah, ora ti curiosi come ti qui, mi mangia i peruzzi. Praticamente stavo guardando questo filmato di questo ragazzo che vive in Australia. E lì non ce n'è di animali piccoli, ci sono coccodrilli, ci sono serpenti, però se non li fai niente non ti fanno nulla. Sì, già sì. Ha visto che se la vende surf, ne è saltato sopra la tavola e se l'ha mangiato. Sì, già l'ho visto, un ragazzo di 15 anni era. Poveraccio, beh. Si era slurpato tutto, via. Ma che E c'è gente che va anche da Sassari a fare surfing in Australia, perché ci sono le onde più alte che esistono, ci sono in Australia. Cazzo, era andato che si mare, mia madre di venga, vabbè che anche qua va le squadre sono pure occhi. Vabbè, ma è diverso, lì vanno in spiaggia, proprio in riva vanno. Cazzo. Non in spiaggia, ma proprio in riva ci vanno, capito? Hanno fatto vedere filmati di squadre che vanno in riva. Sì, già lo so, già lo so. Tutta un'altra cosa lì. Animale, ti lascia pure un dretto caso e serpente in chimica in Australia. Vai in bagno e ti trovi il serpente dentro. Ho visto un filmato io in questo caso, ho trovato il serpente in bagno. Cazzo, mavi. Finato subito un ruccio, non è che l'ha picchiato, no? L'ho cercato di allontanarlo, fino a quando l'ha portato all'uscita, l'ha fatto uscire fuori. Ma intanto sentivo l'incarnato. Pericoloso. E si prendono dalla coda dietro per non prenderlo, ma di solito si possono anche girare così. Anto! Ma parato te! Ma non bene in Thailandia che si rimangia dei serpenti! E i cinesi si rimangono! No, anche in Thailandia, mi ha mandato il filmato mia figlia che in Thailandia mi ha fatto vedere, ci sono praticamente le tipo bancarelle, no? C'è il fiume che passa sotto e le bancarelle sopra, tipo un mercatino, dove ci sono insetti, grilli, ci sono le rane che saltano, anche serpenti, ci sono serpenti, coccodrilli, cane di coccodrillo, di tutti i più magni. Cuomane! E beh, briciola! Ah, è briciola! E beh, lui! Di barratta! Ciao! Ai. Drogato! La vuoi finire? La vuoi finire? Faccio cillo c'è pura! Ma se sono il mare dietro che c'era tanti anni fa! Sì, che dopo, che stavo, non stava bene! Ciao! Di cosa? Di Antonio! Ma è tutto registrato, Gerardo, buonasera a tutti. E io ce l'ho tutto, ce l'ho quando canta, ciao Tore, ce l'ho quando canta, c'è scritto Castro Caro di Falcone, eccetera, eccetera. Poi c'è lui che gioca a pallone, che gli hanno fatto lo scherzo, che gli hanno spostato tutta la chiuma a barba addosso, che è una mia Lorenzo. Hai fatto tutti i colori, così hai detto qui. Ma vuoi finire, Tore Drago? Ma te ne hai chiamato Tore Drago? Già lo voleva bene a Drago. Vai, fatti una pupilina di mammo. Che c'è Tore Drago? 70.000 euro che ti ho detto di rubaggi. Sì, ne succedevano in quel periodo. Faceva gioco con la calza, faceva un poco di casino. Poi il drago si chiamava Piero, non Tore. Che era drago si chiamava? Si chiama Tintura, che vivo. Il motocarrista. E che fine hanno fatto questi qua? E non entravo più. Mi sa che Tore Drago ce l'aveva, ma che Piero Drago ce l'aveva nel baracchino. Vero Tori? Antoni! Marito, è andato a cuccarsi, a cucinarsi la ravanella. E se mangia il barzetta, adesso fra poco non va entrare più dentro la macchina. Forza che dai. Dillo lì, a te socialmente. Ma sei una cucina. Sto fittendo, ho già da giudito, ho già. Ma grazie, io non affettano. Io mi sono dovuto mangiare due arance, c'è una glicemia 73. Anzi, dopo mi apro quel coso che c'ho, mi mangio il cioccolato, affogato al cioccolato. Mangia il cioccolato, mangia. Che ingrassi, che fa male. Guarda che io sono magro lì, sto dimagrendo. Sì, hai denti. Io è che sono dimagrito. Quanti chili? Ho certo intorno. Quanti chili? Cosa già? Ho detto, ma guarda, quanti chili ha dimagrito? 20 chili. Bugiato. 20 chili. Io l'ho dimagrito 50 per un anno. Ma voi abbi la Iana, che si ce la balla. 20 kg c'è. Ma se pesi 118. Ma cazzo 118. Ehi, si è attaccata anche la sirena. 118, siamo voi, ma... Vabbè, 115 per 3 kg, dai. 60 qualcosa ha preso, dai. Per gamba, c'ha ragione. Sì. Oh già, se no vedi, si può c'è due barre che pare due ruote di 6Z. Ma no, cosa ti vuoi, assomiglia a me? Assolutamente, boh, no, non vi grido di chi che ho. Ma ha preso 60, cosa pesi? Più poco di me pesi. 60 kg di peso. Mica ti rimballe, mica con me. Ma non ti faccio pesare. Non è questione, così non ti muoce più. Tu guarda che pesa 60 kg tu. Ah, a me non pare che non penso sia falso, visto. Dimmi. Ma che se ne sei, Marco? Quanto pesi tu? Così è un centinaio di chili. 65. Troppo grosso c'è per pesare così. Tarato, il peso suo se ci fai chili è buono, altro non ci fa. Ah, così è. Grosso, se sono comprato un ruccio. Ho detto. E non ci va quel peso. E se è andata a vedere la cua? 75, 7, allora cosa so io? 49. No, sono sceso, là, sono maturito, sono la copolatura è fine la mia. Adesso sono in questo liquidi che sceso, non è certo grassi. Prima scendono nei liquidi e poi i grassi. Oh, fino a ieri ci ho mangiato mezzo che è pasta asciutta. No, mi ha mangiato un piatto di riso in bianco. Sì, sì. Papà gli si è preparato dentro un liquido. Magari accusi, sì. Ah no, il riso non fa ingrassare. A me piace la milanese, con i funghi e con lo zafferano. E ma che si fa ingrassare? Condimento. Sì, vabbè, ma i funghi non è che siano cose che ti fanno ingrassare. I funghi sono una muffami, non è che sia niente di che. Alto! Oh! E prendite la ragazza! Ed è buono già il franche che vedo con le funghe. Insomma è stanco solo. Ma coglionato un muro. Oh, ma se devi starmi in paggi, anche stasera non in vena. Così è, la vita è fatta per soffrire, tu cosa devi fare? Ma va a far culo. E così, ma essere tu, e sono tutti così. Cazzo, devo soffrire così, la capisci? Non dire cazzate. Cazzo, a 40 anni va a vedere così, va una vita ancora, te la fa a te. Sì, ma cazzo, ma farla così come te la sto coprendo, qua. Non me l'aspettavo proprio per farla così. Per non essere felice, per essere così. Ciao mia dia, lotta, ciao mia dia, non prendimi le balle. No, lascia stare. La vita te la dirà... La cosa te la devi cercare tu, la serenità te la devi cercare tu, la felicità te la devi fare tu, ma te la fanno gli altri. Il problema è che non riesco più. E non riesci più, sei tu perché ti ci butti giù. Ho anche maggiore balle e viene. Io dico che se acciappa la metà vera mi arriva di bassa tutto. Infatti io si ho pensato io buro già, se trova qualche luna mi fomane, anche le palle di succhia. Vabbè, ti buccaccio un attimo. Ma cuglio, ma dichissimi che ci malenghe. Sì, vabbè, però di queste malenghe, che voglio solo quella, non le voglio, voglio una femmina, seria, io che non voglio una malenga. Ah tu, quanti anni c'hai? 41. Io ero 31 più di te, pure mi sto sempre divertendo. E ho persone serie. Ma... Quando sei con un pittino non ti gaggano, no? È difficile trovare una donna. No, è difficile. Ma io ho aggiunto una bella che va via tre figlioli, fatelo conto. E non sei seriamente all'inizio, pure ho detto, boh, non mi piace più. Però... che se io trovo una donna che c'ha anche un altro figlio, che è una brava persona, di famiglia e cose, cioè, va bene, no, guarda, va bene. Però piano, quando non te lo aspetti, cioè, capita, dai. Succede. Il problema è che non esce a lungo, ma cosa devo dire a Gabriele? Portatelo in giro anche a lui, e ci sono donne che sono, hanno l'istinto materno, quando vedono un bambino si avvicinano e cominciano, visto Alghero cosa è successo? Alghero ce l'ha rimorchiata una tu. Che cosa? Alghero te lo ricordi quella lì? Ah sì, sì, ma più di tanto non va avanti. Perché non hai spinto tu? Tu non...